faccia ti rigetto i miei colori, prendo un senso, lo voglio vedere, voglio far parte delle mie visioni. Ti riconosco in tutti i miei specchi, prendo distanza nel cielo, riflessi e sputo ciò che non appartiene, senza catene lì fuori dal coro. Yeah.